Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia e cercheremo di raccontarvi un'altra giornata economico-finanziaria che, devo dire, fino a metà giornata sembrava tranquilla, più tranquilla rispetto a ieri, dopo questo salvataggio che molti attendevano del primo gruppo assicurativo in America. Di fatto il governo americano se l'è comprato l'80% di ANG. Dicevo, sembrava una giornata tranquilla, qualcosa invece si sta muovendo in maniera molto brusca adesso, giusto per non farci mai mancare una notizia, perché il Dow Jones da poco ha preso a perdere parecchio, meno 2,3% in questo momento, e sul Dow Jones lo Standard & Poor's 500 meno 2,80%. È chiaro che questo sta facendo peggiorare tutte le borse europee, che perdevano, ma insomma in maniera abbastanza contenuta. Invece adesso il calo dell'1,7% sul Mibtel, dell'1,4% a Parigi, dell'1,3% a Francoforte, Londra meno 1,3%. Cercheremo di capire quali notizie in più siano arrivate dall'America, ma fa impressione guardare l'andamento dello Standard & Poor's, l'indice dei titoli americani a maggiore capitalizzazione, quelli più pesanti, perché a parte Lehman Brothers e ING, Morgan Stanley, l'altro colosso, sta perdendo il 17%, Goldman Sachs il 10%, Merrill Lynch perde un 9,3%, Citigroup il 9%, cioè le prime 5 banche americane perdono dal 17 al 9% in questo momento. Se si va a scorrere il listino, non c'è nulla che si stia salvando. General Electric, che è il colosso per capitalizzazione americano e, se non ricordo male, anche a livello mondiale, perde comunque il 7,2%, la Boeing il 5,4%, Bank of America il 5,4%, la Ford perde il 5%, la Honeywell il 4,8%, la Home Depot il 4,3%, la Wells Fargo, quindi spedizioni e transazioni finanziarie, anche lei 4,4%, perfino la CBS Corporation, la televisione, perde il 4%, la Philip Morris il 4%, la Dow Chemical il 3%. Non si sta salvando nessun settore negli Stati Uniti, questo è il segnale che molte preoccupazioni restano del tutto attuali. Altro dato che oggi è uscito: i mutui hanno toccato il livello in Italia, per quello che riguarda il tasso interbancario di riferimento, il livello più alto da 6 anni a questa parte. E vi dico subito che in apertura di programma cercheremo di capire chi sta pagando questa crisi, su chi si sta scaricando questa crisi. Per il resto parleremo di Alitalia, con gli aggiornamenti della trattativa in corso, e ancora avremo un focus sulla Russia, perché a Mosca sta capitando, cioè piove sul bagnato. Oltre a tutte le tensioni relative ai mercati internazionali, c'è anche una vicenda Gazprom che penalizza ulteriormente la borsa. Insomma, Mosca ha perso un altro 10% oggi, dopo che ieri aveva perso un 10%. Le tensioni georgiane non hanno aiutato. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Rapidamente le altre notizie di questa giornata. E allora, se questa mattina le borse avevano tutte fatto un parziale rimbalzo e l'Asia aveva chiuso in positivo su tutti i listini, il peggioramento è arrivato a metà giornata, tranne Mosca, che fin dall'inizio era impicchiata, gli scambi sono stati sospesi, il listino perdeva il 10%, da inizio anno la borsa moscovita ha perso il 53%. E il governo russo ha deciso di erogare un prestito fino a 44 miliardi di dollari alle 3 principali banche del paese per immettere liquidità nel sistema. Ciò nonostante, le borse europee procedevano bene, i rialzi a Milano erano di oltre un punto percentuale, adesso stiamo perdendo il 2% invece sull'S&P MIB. New York però, quando ha aperto alle 15:30, aperto in forte ribasso, aperto subito con 2 punti percentuali di calo sul Dow Jones e 1,5 punti sul Nasdaq, e a trascinare le vendite era Goldman Sachs, un'altra delle storiche banche americane, banche d'affari, colossi finanziari, un'altra banca che molto ha svalutato in questi mesi. Goldman Sachs è riuscita a svalutare non come altri gruppi, ma insomma ha perso decine di miliardi di svalutazioni e a 4 miliardi di dollari in svalutazioni dovute agli investimenti in mutui subprime. E dopo Goldman Sachs è arrivata anche Morgan Stanley, stiamo parlando dei nomi più blasonati delle banche americane, meno 23% in borsa subito, adesso perde un 17,2%, Morgan Stanley ha già portato a casa perdite per 14 miliardi dovute agli investimenti nei mutui americani. Qualcosa però si muove sul fronte delle acquisizioni, nel senso che i Lloyds sarebbero in contatto con HBOS per una potenziale per un'ipotesi di acquisizione di quello che è l'istituto ipotecario britannico, che ha già perso il 37%, oggi è crollato il titolo in borsa sui timori di una difficoltà ad accedere a liquidità, a trovare denaro. Balza nel frattempo la domanda di mutui negli Stati Uniti del 33,4% e anche boom nei rifinanziamenti, più 88%, e il dato più alto dal 2001, mentre le nuove case costruite sono crollate del 6%, molto peggio delle stime. E che quindi il bubbone di questa crisi sia concentrato nel settore immobiliare, nel mattone americano, lo si vede da questi dati, che poi si sia potuto diffondere in tutto il mondo attraverso degli strumenti rischiosi, complicati, che pochi hanno capito, che nessuno sa dove sono finiti, questo è più il veicolo del virus, dell'epidemia, non tanto il focolaio. Tra l'altro sul fronte obbligazionario il rendimento dei bond americani è crollato allo 0,23%, mentre la differenza tra il nostro BTP e il Bund tedesco, che è una differenza che era scesa in questi anni, ha di nuovo superato i 75 punti base, ossia lo 0,75%. E dicevamo appunto ad agosto i tassi per i mutui sono schizzati al 5,96%, è un record da 6 anni e già si capisce che, per esempio, chi ha un mutuo, chi ha un prestito con la banca, per chi ha un'impresa, questa crisi la sta già pagando pur non avendo fatto nulla, men che meno investito in mutui subprime. L'Alitalia, Roberto Colaninno avrebbe iniziato la sua relazione con i sindacati, il tavolo è partito poco dopo le 16, dicendo: attenzione, non è un out-out, ma non possiamo concedere più nulla, lo ascolteremo più avanti un passaggio di quanto Colaninno ha dichiarato all'inizio dell'incontro con i sindacati. Mi fanno segno invece che dobbiamo andare veloci perché oggi abbiamo molte notizie, queste in breve le principali altre notizie della giornata economico-finanziaria. Chiaro è che anche oggi ripartiamo cercando di capire cosa stia succedendo sui mercati. Intanto uno sguardo a Piazza Affari, sta peggiorando, meno 2,1%, Seat perde il 9,3%, Unicredit è la più bastonata tra le banche italiane per via delle sue esposizioni in mutui subprime e anche con Lehman Brothers, 130 milioni se ben ricordo di dollari, comunque meno 7,3% Unicredit, meno 6,3% in Pregilo, meno 5,3% Autogrill, meno 5,2% A2A e Fiat, meno 4% Intesa San Paolo e anche il Banco Popolare. Andiamo quindi con ordine, cerchiamo di capire chi sta pagando questa crisi, se veramente è una crisi generata da una finanza che ha adottato strumenti fuori controllo e che non riesce a controllare, oppure se sia una crisi tipicamente caratterizzata dallo scoppio di una bolla, come già è successo nel passato. Non è una differenza da poco, in un caso viene meno un intero modello di riferimento, un modello di capitalismo e di finanza, nell'altro caso, per quanto grave sia la situazione, si tratta dello scoppio classico di una bolla speculativa. Per discutere questi sviluppi e anche per capire chi la stia pagando, ci colleghiamo con gli Stati Uniti, dove c'è il professor Alberto Bisin, economista alla New York University editorialista della Stampa. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera. Andiamo con ordine, come sempre, dalla cronaca alle valutazioni. Come molti immaginavano, già ieri c'erano i sentori, alla fine la Federal Reserve ha salvato di fatto il colosso assicurativo americano AIG, praticamente se l'hai comprato per l'80%, 85 miliardi, certo formalmente è un prestito, ma insomma non restiamo sulla superficie. Perché AIG si doveva salvare, Freddie Mac e Fannie Mae si sono salvate, Bear Stearns è stata fatta salvare, la stessa Merrill Lynch è stata fatta salvare dalla Bank of America e invece Lehman Brothers è stata fatta saltare. Sì, dunque, naturalmente è difficile fare questo tipo di valutazioni, ma io credo che, innanzitutto la questione di Fannie Mae e Freddie Mac è un pochino diversa, nel senso che queste società avevano un'implicita garanzia da parte del governo, quindi non salvarle sarebbe stato un problema ulteriore, insomma, operavano sotto una sostanziale garanzia del governo, quindi quelle in qualche modo andavano salvate. Per quanto riguarda invece la differenza fra Lehman o Merrill Lynch e AIG, io credo che la questione sia il rischio di sistema e sia in parte, quindi in parte la questione è... Cos'è il rischio di sistema? Non ho capito. Cos'è il rischio di sistema? Il rischio di sistema significa che i collegamenti delle posizioni di AIG sui mercati finanziari erano proprio il network è molto più sviluppato ed esteso e quindi il crollo di una società come AIG poteva generare molti altri crolli. Naturalmente questo è vero anche per Lehman e per Merrill Lynch, però evidentemente molto meno, chiaramente molto meno. Credo che questo fosse sia il primo punto che Paulson e Bernanke hanno avuto in mente, ma io credo ci sia anche un'altra questione. Paulson e Bernanke stanno cercando di modulare l'effetto informazione delle loro mosse in maniera importante, è molto importante. Io credo che un grosso problema sia nessuno, neanche fra gli investitori, sta capendo molto di quello che succede. I bilanci, l'incertezza riguardo ai numeri di bilanci delle società è molto alta e quindi l'impressione è che la gente stia guardando alla Fed per capire da loro cosa pensano, cosa succede. Quindi in un certo senso far fallire Lehman è stato un messaggio: le cose sono gravi, ma non così gravi e le possiamo sopportare. Il messaggio di AIG era nello stesso tempo, però non possiamo far estendere la crisi agli assicurativi. Restiamo nelle banche, è chiaro che dobbiamo ristrutturare il sistema bancario, ma gli assicurativi cercheremo di controllarli. Io credo che è questo quello che avessero in mente. Ecco, secondo lei questo stesso messaggio che lei ha appena ricordato da parte della Banca Centrale Americana, del governo, del Tesoro americano, le banche possono fallire quando la situazione è troppo complessa, nessuno se lo vuole comprare, ma non permetteremo alla crisi di estendersi a un settore ancora, se mi permettete, più delicato come il settore delle assicurazioni, certo, e delle riassicurazioni, quindi assicurazioni di assicurazioni, perché quello vorrebbe dire veramente arrivare a un passo dalla catastrofe. E secondo lei lo stesso messaggio, e quindi Lehman può fallire perché il sistema ce la fa a reggerlo, è stato ed era presente anche ieri nella decisione di lasciare i tassi di interesse invariati? Credo di sì, così è stato letto almeno. Appena prima della decisione si pensava che Dow fosse salito proprio perché gli investitori si aspettavano una riduzione del tasso di interesse, del tasso di sconto. In realtà poi il tasso di sconto non è stato cambiato e Dow è salito ancora di più, quindi evidentemente è stato interpretato proprio in quel senso, è stato interpretato nel dire la situazione è grave ma è abbastanza, possiamo gestirla. E quindi non c'è bisogno di tagliare i tassi in maniera così urgente, perché ci teniamo ancora qualche margine, tanto la situazione è grave ma è ancora gestibile. Allora, che la situazione possa diventare più grave, invece, lo sostiene il nostro Ministro dell'Economia, che devo dire già in tempi non sospetti, un anno fa, parlò in una lunga intervista di una crisi che ricordavo che avrebbe minato le basi di questo capitalismo come quella del 29 minò le basi di quel capitalismo. Giulio Tremonti dice che la situazione in realtà può aggravarsi. Il nostro termine di riferimento è costituito dal programma elettorale. Questo programma si estende sull'intero arco della legislatura e sarà integralmente realizzato entro il suo termine. 5 anni sono un periodo di tempo sufficientemente lungo per graduare l'avanzamento progressivo degli interventi che ci impegniamo a realizzare. In ogni caso ci è ben chiaro che la realizzazione del programma è sottoposta a 3 vincoli essenziali. Il vincolo costituito dalla crisi economica in atto nel mondo e in Italia, una crisi che può aggravarsi, e temo che guardando le cose ora per allora, a settembre il programma fu scritto nella primavera di questo anno, purtroppo i fatti ci hanno dato ragione e in un qualche modo ci accreditano per una qualche capacità di visione politica, una crisi che può aggravarsi e che in questi 2 ultimi anni è stata, puntini puntini perché non voglio litigare. Allora, così ha parlato oggi in conferenza stampa Giulio Tremonti nel corso dell'audizione della Commissione Finanze della Camera e ha detto, attenzione, i 5 anni di tempo sono sufficientemente lunghi per realizzare alcune cose, ma questi vincoli che abbiamo appena ascoltato. Professor Bisin, abbiamo capito perché Lehman è stata fatta fallire mentre AIG no e men che meno altri colossi, però vorrei capire un'altra cosa con lei. Tremonti pensa che la crisi possa aggravarsi. Lei è di questa idea? Sì. Beh, la crisi finanziaria, diciamo, sì, senza dubbio, nel senso, non credo che nessuno possa argomentare, diciamo, con certezza che siamo in fondo. La questione importante però è cosa intendiamo, nel senso, la crisi finanziaria indiscutibilmente non finisce qui. La questione in un certo senso più importante è la crisi economica. Gli Stati Uniti in questo momento ancora sembrano reggere abbastanza bene, la separazione fra finanza e l'economia reale sembra aver funzionato abbastanza bene per ora, poi magari domani succede di tutto, però il fatto che la crisi finanziaria abbia un impatto molto grosso sull'economia reale, io spero non sia vero, spero non succederà e credo che ci sia una buona possibilità che non succederà. Indiscutibilmente l'economia americana è in recessione, ci resterà per un po', ci mancherebbe, ma la questione è la gravità della crisi finanziaria è oggettivamente, diciamo, di dimensioni storiche, quella della crisi economica un po' meno, insomma è una normale recessione finora. E adesso facciamo, mi scusi, l'ho interrotta? Sì, prego. Dico, adesso facciamo però il calcolo di chi questa crisi la sta pagando, perché è una domanda che arriva anche al 349-238-6666. Chi la paga? Allora, gli azionisti diciamo del settore finanziario la stanno pagando, Bear Stearns e Lehman Brothers sono praticamente scomparse, Goldman Sachs ha perso 1/3 del suo valore, UBS oltre il 60%, AIG aveva perso il 90% in borsa, Merrill Lynch l'80%, quelli l'hanno preso in tasca, diciamo. I manager, si dice spesso questo capitalismo non funziona anche perché i manager con i bonus fanno una politica di breve termine per intascare i bonus sulle azioni e se ne fregano di quello che succede poi all'azienda e sono, poi vanno ai Caraibi con cifre milionarie, è d'accordo? Sì, appunto, si dice spesso, è anche perfettamente possibile, c'è una grossa discussione in accademia in questo momento su questo punto, è perfettamente possibile che i manager in effetti siano in qualche modo soprappagati, abbiano rendite di posizione molto elevate, però è difficile argomentare che come dire, non paghino sulle loro tasche, non paghino nelle loro tasche. In generale agli alti livelli di management negli Stati Uniti se uno perde un posto ha finito, insomma essenzialmente la sua carriera è conclusa. E ovviamente queste non sono persone che finiscono sulla strada, però perdono stipendi da centinaia di milioni l'anno, perdono ricchezze grosse perché grossa parte, per varie ragioni, i loro sistemi di compensazione crediti, su incentivi, danno loro options e azioni della loro impresa, quindi quando l'impresa crolla spesso perdono molto. Adesso, a parte i casi degli anni precedenti tipo Enron, dove c'erano proprio questioni, diciamo, sì, anche Bear Stearns, il numero uno, giocava a bridge col telefono spento mentre il titolo crollava. Capisco, ma una cosa è la questione di illegalità, certo, diciamo così. Una cosa è invece il, diciamo, gli errori. Io credo che i manager paghino questi errori molto. Adesso ovviamente l'opinione pubblica vorrebbe vederli in catene spesso, e questo non succede, forse è giusto che non succeda, anzi senz'altro è giusto che non succeda, però insomma, appunto, come si diceva, l'amministratore delegato di Lehman ha perso, insomma, 700-800 milioni di dollari, insomma, ce ne faremo una ragione. Sono sicuro che, diciamo, prima di perderli ci ha pensato bene, insomma. Sì, e ce ne faremo una ragione, anche perché era l'uomo più pagato di Wall Street. No, infatti non è la polemica, dico solo che tra il numero uno di Lehman, che ha rinunciato a 700 milioni di dollari, e invece la segretaria che ha dovuto sbaraccare quei cartoni che abbiamo visto, così ci piace più, siamo più vicini e sensibili alla segretaria. Ma ho capito benissimo il suo ragionamento, che invece è molto più serio del mio, e lei dice: attenzione, non è vero che i manager poi non paghino, perché escono dal mercato del lavoro, perdono centinaia di migliaia di dollari di bonus, hanno difficoltà a essere ricollocati, insomma non si può dire che prendano i soldi, che necessariamente prendano i soldi e scappino, se ho ben capito. Esatto, probabilmente ne prendono troppi, però diciamo pagano, quando sbagliano pagano abbastanza, insomma, almeno in questo caso. Bisogna dire una cosa che secondo me è molto importante da notare, è che il Ministero del Tesoro e la Fed sono stati molto attenti a non salvare i manager e gli azionisti tutte le volte che hanno salvato una società, e questo secondo me è un segnale molto importante. Hanno ogni volta evitato di proteggere i manager e gli azionisti della società che hanno salvato, da Fannie a Freddie a Bear Stearns, Merrill Lynch, eccetera. Stanno pagando gli azionisti. Hanno pagato anche i manager, probabilmente sono pagati troppo i manager di queste banche, ma hanno pagato perché hanno perso soldi, posto, e quindi non si può dire che hanno preso i soldi e sono scappati. Chi altro sta pagando? Perché oggi abbiamo visto un tasso interbancario per i mutui in Italia toccare i livelli più alti da 5 anni a questa parte. Il sistema sta scaricando, anche in Europa lo fa da un anno, questa crisi di fiducia in chi ha un mutuo, nell'impresa che ha un prestito, deve rinnovarlo. Queste sono le vere vittime, diciamo, dei 500 miliardi di euro di svalutazioni delle banche, dei 400 miliardi bruciati in un solo giorno nel lunedì nero? Sì, indiscutibilmente. C'è quello che si chiama un credit crunch. Le banche, anche quelle che stanno in condizioni relativamente buone, tendono a non prestare con facilità, e quindi i tassi aumentano. Questo è indiscutibilmente, e quindi ovviamente chi sta dall'altra parte del mercato perde. Per quanto, diciamo, questo sia ovviamente un grosso problema, per quanto si vede ora, questo resta nei limiti di, diciamo, una recessione. Cioè siamo in una fase recessiva dell'economia mondiale, per varie ragioni, non solo dovute alla finanza, ma anche al prezzo del petrolio, eccetera, e comunque semplicemente per la fase di ciclo, che comunque normalmente ha le sue fasi di recessione. Quindi siamo chiaramente in una recessione, il credit crunch non aiuta, quindi indiscutibilmente la questione si fa sentire sul lato dell'economia reale. Appunto, come dicevo prima, per ora siamo nei limiti, diciamo così, di una normale recessione. Non voglio dire che ci si stia divertendo, ma siamo nei limiti di una normale recessione. Non sembra, gli effetti della crisi finanziaria sull'economia reale non sono così grandi come si poteva temere. Adesso la grande questione è dove stiamo andando. Se stiamo andando lì. Adesso ci arriviamo, prima che ci mandino gli ascoltatori. Ogni tanto vedo anche delle critiche qui al 3492386666. L'ultima domanda è proprio questa, professor Bisi. Allora, questa è una crisi dovuta a un'incapacità da parte delle banche di prevedere quanto gonfiato, quanto pompato era il mercato immobiliare americano, di non aver capito quanto sarebbero scesi i prezzi, quindi di non aver saputo fare il loro lavoro, ma all'interno di un contesto conosciuto, o questo è l'inizio della fine di un modello di capitalismo che ci ha accompagnato per almeno 20 anni, diciamo da Gordon Jekyll in poi? È la fine di questo, cioè non riusciamo più a controllare questo capitalismo, per cui le banche, come lei ricordava, non vanno in aiuto a Lehman Brothers perché non sanno che cosa c'è dentro, non si prestano i soldi perché non si fidano l'uno delle altre, quindi va a remengo, se mi passa il termine, tutto il meccanismo di fiducia su cui si regolano i prestiti, le transazioni finanziarie. Oppure è stato commesso invece un errore di valutazione, ma il castello regge e non è di carta. Ma ovviamente questa è una domanda molto difficile, difficile nel senso che la risposta in qualche modo rivela come dire, la struttura ideologica e concettuale con cui si analizzano queste cose. Io tendo a essere certamente più ottimista del ministro Tremonti. Io non credo che sia la fine di nessun modello capitalistico. Il fatto che diciamo l'idea del castello di carta, non mi convince. Io ormai sono tanti anni che diciamo la finanza è molto sviluppata, gli strumenti finanziari sono sempre più sofisticati e si capiscono, la gente li capisce, non è credo che indiscutibilmente ci sia stato un grosso problema con il prezzo, i prezzi immobiliari, le banche non lo hanno capito, onestamente io non capisco come non l'abbiano capito, perché se ne parlava, però chiaramente non lo hanno fatto, e questa è una cosa da cercare. Perché si pensa sempre che il cerino sia più lungo. Ci sarà molta più regulation, è chiaro che il sistema sarà un pochino modificato in quella direzione. Io non vedo enormi, come dire, cambiamenti di come si gestisce il sistema economico. Cioè di paradigmi in questo capitalismo, no, probabilmente le banche hanno peccato anche di avidità, hanno pensato che il cerino fosse più lungo di quanto poi non si è rivelato essere, che questa bolla sarebbe esplosa sempre una settimana dopo rispetto al loro ultimo investimento. C'è anche l'avidità, il grading, come dite in americano, però le faccio solo notare, professor Bisin, che è la prima volta che noi vediamo un sistema come quello bancario che non si fida, in cui le banche non si fidano le une delle altre. Cioè, l'incertezza, Lehman Brothers, nemmeno i sudcoreani se la sono voluta comprare perché hanno detto non riusciamo a capire che roba c'è qua dentro. Ora, forse l'eccesso di carta. Il problema è sempre lo stesso, non si capisce dove vanno i prezzi. Ho capito, però allora. Non si capisce dove vanno i mutui. Quindi secondo lei il problema è il sottostante, cioè dove andranno a finire i prezzi immobiliari, non tutta la struttura complicatissima di cartolarizzazione. No, io credo che non sia un grosso problema. Io credo che il problema sia, in questo momento non sappiamo quanti di quei mutui non pagheranno, quante di quelle persone col mutuo non pagheranno. Beh, no, è confortante perché almeno è un problema reale. Io temevo e temo ancora che delle volte questi strumenti così complicati e con la possibilità di perdere subito il loro passaporto, la loro identità e finire in 10 mani diverse, in 10 passaggi, abbiano poi complicato e infettato tutto il sistema. Ma se lei mi dice che il vero problema è reale. No, ovviamente, come le dicevo, questo c'è un po' di ideologia in questo. No. Io ho l'impressione che la questione, diciamo, della sofisticatezza degli strumenti non sia un così grosso problema come appare, però appunto in questo c'è proprio una questione di fiducia di fondo. No, ma io sono contento perché se fosse così almeno staremmo affrontando un problema non di sistema, non di modelli, ma di classico sgonfiamento di una bolla in cui finché tu non capisci quanto giù andrà quel mercato, quel settore, non ti fidi a comprare. Grazie ad Alberto Bisin, economista della New York University, editorialista della Stampa, in collegamento con noi dagli Stati Uniti. Grazie a voi, grazie mille. E adesso, come promesso, parliamo di mercati finanziari. Dunque, i messaggi che stanno arrivando sono di diverso genere. Purtroppo non ho belle notizie, le agenzie che mi hanno portato in studio parlano di un crollo vero e proprio in questo momento per Goldman Sachs, meno 22%, mentre per quello che riguarda Morgan Stanley il calo in borsa è del 41% e sta trascinando giù tutto il listino, meno 3% in questo momento Dow Jones. È un'accelerazione oggettivamente non immaginabile in questa giornata. Le agenzie battono anche la notizia che il governo americano starebbe per salvare Washington Mutual, che è il colosso nell'erogazione di mutui americani, mentre nel frattempo l'oro è schizzato a New York a livello più alto, quanto a rialzo, diciamo, quanto a incremento dal 2000, dal febbraio del 2000, e continuo a leggere l'agenzia insieme a voi. Anche il Reserve Primary Fund è in difficoltà, è il più antico fondo monetario americano. I fondi monetari sono quelli che esistono anche in Italia, si mettono soldi su strumenti monetari con rendimenti bassi ma considerati sicurissimi. Dopo i contanti e i depositi bancari, sono da sempre, l'investimento in fondi monetari è da sempre considerato quello più sicuro. Ebbene, per la prima volta nella sua storia sta perdendo ed è sotto il valore di un dollaro per azione, ha praticamente 65 miliardi di dollari di assets, quindi di società controllate e di beni, e tra l'altro ha perso il 60% del suo valore. Questa non è una bella notizia, perché è la prima volta che capita un fondo monetario. Nel frattempo la Banca Centrale Russa ha ridotto l'obbligo di riserve obbligatorie richieste alle banche per stabilizzare la situazione russa, che è più complicata se possibile della situazione già complicata a livello internazionale. Le vostre domande al 349-238-6666 riguardano alcuni temi di cui tornerà a occuparsi Salvadanaio con Deborah Rosciani venerdì prossimo, lo ha già fatto oggi, ossia chi ha comprato obbligazioni Lehman Brothers, magari su suggerimento della banca, può chiedere di farsi rimborsare. In alcuni paesi questo viene fatto, altri criticano il principio di quanto sono stati pagati questi manager, è una polemica che abbiamo trattato anche noi. Insomma, certo, Richard Fuld, il numero uno di Lehman Brothers, guadagnava 40 milioni di dollari l'anno, non possiamo essere preoccupati per lui, ma anche Charles Prince, che ha creato un bel crollo su Citigroup, ha avuto una buona uscita da 30 milioni, Stanley O'Neill se n'è andato da Merrill Lynch, Merrill Lynch abbiamo visto che fine ha fatto, con una liquidazione da 160 milioni di dollari e via così. Quanto alle esposizioni italiane, visto che molti di voi ci chiedono, ma allora possiamo stare tranquilli? Vedete, sta tranquilli nella vita forse mai. Goldman Sachs sta perdendo il 23% e Morgan Stanley il 42%. Però per quello che riguarda le esposizioni italiane, il tesoro italiano è esposto per circa 1 miliardo su Lehman Brothers. Il fondo Cometa poca roba, poi anzi, se riusciamo a fare sentire anche la dichiarazione per quello che riguarda il fondo Cometa, che è il fondo dei metalmeccanici, è quanto mai importante, perché la nostra Valentina Furlanetto ha raggiunto poi chi nel fondo Cometa lo gestisce, perché è il presidente, e adesso ci arriviamo. Mentre per quello che riguarda il gruppo Unicredito, l'esposizione su Lehman è di circa 120 milioni. Unicredito di suo ha detto che l'esposizione complessiva, le svalutazioni complessive che potrebbe portare a casa per le esposizioni con gli strumenti ad alto rischio americani ammontano a circa 1 miliardo. Allora, sentiamo intanto, per mettere tranquilli i metalmeccanici, quanto era esposto questo fondo pensione nei confronti di Lehman Brothers. Poca roba, lo 0,1%, almeno questo è quello che sostiene Fabio Ortolani, al microfono della nostra Valentina Furlanetto. Un'esposizione ridottissima, abbiamo in portafoglio oltre 1000 titoli azionari, stiamo evidentemente rassicurando, perché la questione dire che l'esposizione dello 0,1% mantiene le posizioni previdenziali complementari raggiunte allo stesso livello. Abbiamo scritto anche al Ministro del Lavoro, chiediamo l'incontro al fine che la previdenza complementare in Italia abbia un sostegno più che altro di controllo migliore dei mercati finanziari a tutela degli investimenti previdenziali dei cittadini. Sono investimenti che non sono decisi da voi, ma dai gestori ai quali date mandato. Adesso pensate di modificare questi mandati? Abbiamo fatto il Consiglio di Amministrazione, che ho subito convocato. Avevo già convocato nei giorni scorsi i gestori, visto che la situazione finanziaria dei mercati era quella che era, e ho già dato delle indicazioni precise, perché i nostri investitori sono investitori lavoratori, i quali devono avere delle certezze finanziarie. Ho detto questo agli investitori gestori. Ho già investito i gestori delle loro responsabilità, nessuno se l'aspettava, come dicono gli investitori. Io avevo delle preoccupazioni, l'ho espresso ai gestori. E questo è il problema che io devo in qualche maniera lanciare come monito alla politica, di mettere delle regole più stringenti del rapporto tra mondo della finanza previdenziale e mondo dei gestori. Secondo lei c'erano motivi di allarme per Lehman Brothers? Chiaro che lo speculatore specula, ma nel momento in cui c'è, come dire, la necessità di una finanza previdenziale, è chiaro che ci deve essere un'attenzione maggiore da parte di chi investe i propri risparmi. Allora, dunque, molti di voi dicono, ma insomma, che ne potevamo sapere noi, visto che stiamo parlando della quarta banca americana, della terza banca americana? Avete ragione, nessuno immaginava, nemmeno noi che da sempre siamo scettici e così prudenti su questa borsa che da anni continuava a salire, con prezzi degli immobili sempre in salita, con bilanci bancari sempre in salita, però nessuno immaginava che Lehman Brothers da un lato, Morgan Stanley dall'altro, Merrill Lynch, Goldman Sachs potessero finire in questo genere di, così, di palude, per essere quasi generosi. La borsa, allora, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Stiamo parlando della crisi, come sempre facciamo ormai da giorni, da inizio programma, andiamo sui titoli. Il peggioramento americano è dovuto, si chiama Goldman Sachs, appunto, meno 20, e Morgan Stanley meno 40%, con a ruota tutti gli altri titoli, lo ricordavamo prima, non c'è nulla, neanche General Electric, neanche Dow Chemical, nemmeno la Ford, la CBS, cioè tutto il settore americano va male. Da noi perché paga di più Seat? Guarda, Seat ovviamente abbiamo visto nelle scorse settimane che già c'era molta preoccupazione per quella che è la situazione finanziaria dell'azienda. Ovviamente in questi momenti di crisi poi i gestori o chiunque abbia azioni in portafoglio che sono diciamo critiche tende a vendere e quindi Seat paga maggiormente lo scotto rispetto ad altri titoli. Ma c'è il timore che ci possa essere qualche problema sul fronte del debito, dell'esposizione debitoria di Seat o no? Ma in generale almeno i trader che abbiamo sentito hanno riferito che si vende a piene mani, ovviamente si vendono proprio i titoli su cui ci sono anche maggiori dubbi, Seat in primis ovviamente. Mm-hmm. Allora, secondo il peggior titolo in assoluto RCS Media Group, vorrei capire se è successo qualcosa su questo titolo anche, ma soprattutto poi fa impressione il calo oggi, che è una specie di tonfo, di Unicredit, meno 8,1% per il titolo, che così scende a 3,2 euro per azione, un livello che se pensiamo che insomma a un anno fa, un po' più di un anno fa, un anno qualche mese fa, il titolo valeva sopra i 7 euro, e poi comunque ad agosto del 2000, un anno esatto fa, valeva 6,90 euro, siamo a 3,1 euro, capirai, ha dimezzato il valore. Eleonora? Sì, per quanto riguarda RCS si può dire che è andato male un po' tutto il comparto dei media, anche ad esempio Mondadori ha perso il 3,2%, RCS ha meno azioni in borsa, quindi risultano più volatili e proprio per questo magari ha registrato una performance peggiore. Unicredit invece è stata anche sospesa per eccesso di ribasso nel durante della seduta, poi ha chiuso con un calo molto più evidente rispetto agli altri bancari italiani, ma questo succede sempre, Unicredit amplifica sempre ultimamente quelle che sono le variazioni del comparto bancario, visto che si muove più con le banche europee. Il sottoindice bancario europeo, infatti, lo Stoxx 600 ha perso oltre il 4%, il 4,11% oggi. E infatti devo dire che vanno male anche altri bancari, non così male come Unicredit. Eleonora, se ho ben capito, si teme che sia la banca italiana forse più esposta verso le banche americane in difficoltà, oltre che più esposta verso i mutui subprime. Oggi Unicredit ha detto che la propria esposizione verso Lehman è di 132 milioni, d'altra parte è tutto da vedere, nel senso che sicuramente sono veritiere le comunicazioni di Unicredit, ma bisogna vedere che cosa accadrà anche alle altre banche e istituzioni finanziarie, quindi è questo il timore. Unicredit, come sappiamo, detiene Commerzbank e quindi si teme che rispetto ad altre banche che sono collocate nel territorio italiano ci sia il rischio di maggiore esposizione nei confronti appunto anche delle banche estere. Ancora sui bancari, il Banco Popolare meno 4,3% ed è il secondo peggiore nel settore bancario e finanziario, poi UbiBanca meno 3,8%, Intesa meno 3,8%, Unipol meno 3,6%, Fondiaria meno 3,1% e Mediolanum meno 2,5%. Mediolanum oggi era la peggiore, sembrava dovesse essere il titolo più a rischio, invece poi è successo di tutto. Al di fuori dei bancari invece Impregilo meno 6,5, A2A meno 5,4, Autogrill meno 5, Fiat meno 4,80 e di nuovo a 10 euro, ST Microelectronics meno 4,3, Mediaset meno 4% come Mondadori, Luxottica meno 3,9, Buzzi Unice meno 3,8 come Fastweb, Unipol meno 3,6, Italcementi meno 3,5, Fondiaria meno 3,1 e Pirelli meno 3% come Finmeccanica. Mi fermo qui, di positivo c'è Enel più 0,90, Eni più 0,14%, il petrolio oggi è leggermente, era soprattutto leggermente risalito a 93,6 dollari e poi Telecom più 1,1%, Telecom Italia, Eleonora. Italia più 1,1 tra scambi consistenti, più 1,1 perché ha ridotto sul finale in quanto le azioni sono arrivate a guadagnare oltre il 3%. E ovviamente a riaccendere i riflettori sulla compagnia telefonica sono le indiscrezioni di stampa che parlano di fondi arabi, in particolare il fondo libico dell'Alafico che sarebbe pronto a entrare nel capitale, ma anche si parla di fondi del Kuwait, fondi sovrani comunque arabi e poi anche di un progetto che prevede appunto lo scorporo della rete. Si tratta di illazioni che per adesso non sono state commentate dalla società, ovviamente ipotesi che circolano negli ambienti finanziari ma che hanno evidentemente riacceso i riflettori sui titoli che erano comunque si attestano sui minimi, 1,08 sì. Hanno chiuso. Allora, che cosa è successo? Al di là delle due principali banche, o di due delle principali banche che stanno crollando in borsa, le preoccupazioni più grosse, da quello che abbiamo capito in questo momento, riguardano la tenuta di Washington Mutual. Washington Mutual è la maggiore cassa di risparmio americana. Già il suo voto, il suo debito viene considerato junk, spazzatura, da Standard & Poor's. L'8 settembre si è dimesso il numero 1, ha già licenziato 2600 persone. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, tra un attimo sarà in collegamento con noi, ci sono dei problemi sulla linea, ma Washington Mutual dovrebbe, da quello che si è capito, ottenere un cordone di salvataggio simile a quello che ieri notte è stato realizzato per IAG. Nel frattempo a New York l'oro è schizzato con un rialzo che è il rialzo più forte in una sola seduta dal febbraio del 2000, il 7% in più a 833 dollari l'once. E allora, mentre vedo il Nasdaq calare del 3,7% in questo momento, si sta cercando anche di capire come mai sia in difficoltà il Primary Fund, uno dei principi più vecchi fondi monetari americani, e la SEC, la Consob americana, sta inasprendo le norme per limitare la possibilità di vendere allo scoperto. E adesso c'è Mario Platero in collegamento da New York. Buonasera Mario. Buonasera. Allora, dicevamo, Washington Mutual è, cosa secondo te è fatta il salvataggio della prima cassa di risparmio americana? Prima domanda, seconda domanda, così mi danno una risposta complessiva, che cosa sta capitando a Goldman Sachs e a Morgan Stanley, che stanno perdendo rispettivamente il 20 e il 40% del loro valore in borsa? Sì, Morgan Stanley che tra l'altro ha dato risultati relativamente positivi per l'andamento del trimestre, quindi nel momento in cui esce con un bilancio che in apparenza è in ordine, ecco che si trova poi penalizzata per il 38% dal mercato, una cosa che voglio dire sembra totalmente fuori di testa, sì. Ma oggi sta succedendo l'incredibile, nel senso che nel momento in cui la liquidità non è pronta ad entrare perché non sa cosa troverà dentro i titoli che compra, e non c'è che la paralisi, non c'è che gente che vende, non c'è che gente che si rende conto che dopo che alcune istituzioni cadono, c'è l'effetto domino. Stiamo assistendo in diretta a quello che abbiamo scritto, a quello di cui abbiamo discusso molte volte, il famoso effetto domino, e cioè che ne cade uno, poi ne cade l'altro, poi ne cade l'altro. Quindi salvate quelle che dovevano essere salvate, subito la speculazione negativa, la paura, il panico del mercato si butta sugli altri, in questo caso si sta buttando su quelle che dovevano essere le più solide, le uniche due veramente sopravvissute, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Goldman soprattutto, che aveva avuto una gestione di portafoglio molto oculata ed era riuscita a ripulirsi di alcuni dei portafogli più così pericolosi, più sporchi. Però la psicologia è quella, e allora cominciamo a chiederci che cosa sta facendo Washington. Stiamo cominciando a chiederci se queste azioni isolate di Washington, attraverso le quali il segretario al tesoro Paulson sperava di poter tamponare questa crisi di mercato, sono davvero delle soluzioni possibili, e se non ci vuole invece un approccio sistemico. Dico questo perché abbiamo un'esperienza passata di una crisi finanziaria a vasto raggio, fu quando alla fine degli anni 80 crollò il sistema delle casse di risparmio, una dinamica tra l'altro non molto diversa dall'attuale. Ci fu la deregolamentazione delle casse di risparmio, le casse di risparmio si misero a fare dei business che normalmente non avrebbero potuto fare, soprattutto, guarda caso, nel settore immobiliare. Queste casse di risparmio si trovarono nel giro di 6-7 anni piene di debiti fino al collo che non venivano pagati, e ci fu il bailout, l'intervento, il salvataggio del governo federale. Un salvataggio fatto come? Con la costituzione di una Resolution Trust Corporation, questo era il nome, quindi di un veicolo speciale, di una compagnia finanziata dal governo, la quale incassò tutta la carta negativa di queste casse di risparmio, inglobò quelle buone, quelle cattive, e piano piano, con la calma che poteva dare il fatto che c'era lo Stato dietro, cominciò poi a liquidarle, e nel tempo la cosa si sistemò. Costò quel salvataggio 500 miliardi di dollari di allora. Questo cosa significa? Secondo me, di nuovo, che non sono i 75, gli 85 miliardi di dollari che si mettono per AIG che vanno a risolvere le ansie del mercato. Dovrà essere un'operazione chirurgica molto più seria, in cui un veicolo con una dotazione di 3.000 miliardi, questo all'inizio di una delle nostre trasmissioni qualche settimana fa o forse qualche mese fa lo avevamo... sembrava una cifra incredibile. Ecco, allora in quel modo si dice che c'è un approccio sistemico, altrimenti ci accorgiamo che qui il sistema crolla un po' da tutte le parti. Sì, cioè, dalla tua analisi emerge chiaramente un messaggio: se si continua a pensare di gestire questa crisi come si è fatta nell'ultimo anno, mettendoci una toppa, è come tappare la falla con uno straccio, non si va da nessuna parte. O a un certo momento viene fatta un'operazione massiccia, enorme, tu hai citato i 3.000 miliardi di dollari, per inglobare i sommersi e i salvati e ripartire da zero, o se no qui siamo allo stilicidio. Mario, vorrei una risposta su questo dopo le informazioni per chi sta viaggiando, poi ci collegheremo con Mosca, che oggi ha visto una giornata, addirittura hanno sospeso la borsa, ma qui siamo allo stilicidio, perché si respira per una settimana e poi arriva un'altra mazzata, si respira per un giorno e poi arriva un'altra mazzata. Se la tua analisi è quella che io ho riassunto e che tu hai esplicitato in maniera più articolata, l'unica risposta a questo punto non può più arrivare dalla Banca Centrale Americana, che continua a garantire liquidità, perché tanto poi il mercato crolla, il Dow Jones ora perde il 3,3%, non può più arrivare solo dai salvataggi di Washington Mutual, che mi sembra che anche tu dia per scontato, visto che è la prima cassa di risparmio in America. Deve esserci un'operazione enorme, lì sì, quasi da New Deal del 29, la può fare solo la politica. Dov'è la politica? Ecco, la politica sta cercando di organizzarsi, hanno provato a mettere i tamponi nella speranza di guadagnare tempo, l'idea era sempre quella, guadagnare tempo. Non so come andrà a finire con Washington Mutual, certamente le pressioni sono forti ed è probabile che il governo intervenga, però avremo un altro segnale dalla risposta, perché è possibile che il governo decida di lasciarla e quindi di dimostrare che la discriminante è: si salvano le grosse organizzazioni che hanno un impatto sistemico, come Fannie Mae, Freddie Mac, come AIG, si lasciano quelle che hanno un impatto locale, come Lehman Brothers, come Washington Mutual, staremo a vedere. Però l'altro punto importante, perché guadagnare tempo? Perché le attività patrimoniali in portafoglio di gran parte di queste istituzioni, per esempio Goldman Sachs, ma per esempio anche AIG, sono molto buone. Non è che ci sia della cartaccia, e c'è della cartaccia, ma c'è anche una gran quantità di roba molto, molto buona. Purtroppo la psicologia del mercato è tale che ha bisogno, per poter guadagnare il tempo necessario per fare un passo indietro e distinguere dalle cose buone alle cose cattive, ha bisogno del tempo. Il tempo glielo può dare solo il governo, la politica, che intervenga non in modo episodico, ma credo in modo sistemico. Vi auguro una buona serata comunque tutto, e nonostante tutto noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.